All'inizio di questa celebrazione ho detto che avrei fatto un pensiero, un'omelia molto didattica, adatta anche ai ragazzi, come se fosse una scuola di fede. Il che non vuol dire che con i ragazzi e con i giovani bisogna essere banali, perché sono intelligenti. Allora dirò diversi concetti. Non importa se tutti resteranno in mente, spero che tutti siano capiti, in modo che col tempo cresca la nostra istruzione religiosa. Infatti, noi diciamo vado a messa, ed è una parola ormai nell'uso comune, ma è la più banale, che deriva dal latino. Una volta il sacerdote diceva: ite, missa est, andate, è finita, voleva dire così. Questa parola è purtroppo diventata la definizione di quello che stiamo vivendo. Vado a messa, e di per sé messa vorrebbe dire la conclusione. Allora chiamiamola pure messa, per capirci. Però chiamiamola anche il sacrificio eucaristico. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Questo è il sacrificio eucaristico, questa è la messa. Ma c'è anche un'altra definizione, il banchetto eucaristico. Banchetto eucaristico perché ci nutriamo del corpo e del sangue di Cristo, ma anche perché ci viene come dato un grande menù di parola di Dio, di cui purtroppo di solito il sacerdote serve solamente il terzo piatto, serve solamente il Vangelo, ed è un peccato perché il primo e il secondo vanno sciupati. Allora io vi suggerisco, perché non posso fare una predica che duri un quarto d'ora, se no voi alzate la mano per dire sei lungo, fa freddo, dobbiamo andare a casa a mangiare. Allora, siccome quel foglietto che avete tra le mani resta solo vostro, lo portate a casa, vi do un suggerimento. Se siete qui come famiglia, sarebbe bello che stasera, invece di dire le preghiere della sera, leggeste insieme con una matita in mano la seconda lettura, che è veramente ricchissima, e per me è un dispiacere, come metterla qui e ritirarla subito senza doverla neanche toccare. È un vero peccato. Mi fermerò sul Santo Vangelo per dirvi che anche oggi facciamo un passetto. Ve l'ho già detto, ma un insegnante le ripete le cose, che la figura di Gesù, che è il centro della nostra fede, ci viene presentata lungo tutto l'anno liturgico. È arrivato il Natale, nasce Gesù. Viene presentato ai magi l'Epifania. Oggi c'è un'altra Epifania, un'altra manifestazione. E se per i magi è stata un'Epifania, per le genti lontane, venivano da lontano i magi, il battesimo di Gesù, che celebriamo oggi, è un'Epifania per il popolo ebreo. Infatti Gesù si mette in fila anche lui con gli altri ebrei, va da Giovanni il Battista per ricevere il battesimo. Anche qui, perdonate se devo fare un po' il didatta, non è il nostro battesimo che è un sacramento, perché i sacramenti li ha inventati Gesù. Il battesimo di Giovanni il Battista è come un rito che si usa in tante religioni, si usa presso la religione antica egiziana, immergendosi nel Nilo, il sacro fiume, nella religione indù, immergendosi nel Gange, il sacro fiume del Gange, e altre religioni, so che ci sono, anche se io non sono uno storico delle religioni, e c'è anche nel cristianesimo il battesimo. Gesù si mette in fila per ricevere questo gesto di penitenza. Perché lo fa Gesù? Per far capire che è uno del popolo, che non è un marziano venuto da chissà dove, che anche lui ha una madre, che anche lui ha un nome ebraico, che anche lui parla la lingua ebraica, fa parte del popolo di Dio e si sottomette a questo rito. Solo che qui avviene un fatto straordinario, una vera manifestazione. L'ha detto molto chiaramente il Vangelo: vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere da lui come una colomba. E venne una voce dal cielo, la voce del Padre: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Quindi questa è, possiamo chiamarla benissimo, l'Epifania della Trinità, perché Gesù viene a manifestarci che non è solo, è con il Padre e con lo Spirito Santo. Da oggi in poi noi dobbiamo tener presente e non dimenticare mai questo aspetto fondamentale della nostra fede. Per spiegarmi meglio porto un esempio del giorno d'oggi. Il popolo giapponese, per dialogare col popolo italiano, nomina un ambasciatore. L'ambasciatore viene dal Giappone, con la cultura giapponese, la lingua giapponese, ma viene in Italia per dialogare col popolo italiano. Si presenta al Presidente della Repubblica, al Quirinale, portando delle lettere ufficiali, che si chiamano lettere credenziali. Le presenta al Presidente, il Presidente le accoglie. Da quel momento, se l'Italia deve dialogare col Giappone, deve passare dall'ambasciatore. Se il Giappone deve dire qualcosa di ufficiale all'Italia, glielo dice attraverso il suo ambasciatore. Gesù è l'ambasciatore del Padre. E oggi il Padre presenta le lettere credenziali. Dice: questo è il Figlio mio, il prediletto, ascoltatelo. Io ho già finito la mia predica. Volevo solo farvi fare un passo, un gradino, per dire: oggi abbiamo compreso che Gesù, il Gesù di Nazareth, il Gesù, il Cristo, quello che noi adoriamo, è la seconda persona della Santa Trinità. E allora vi invito a non mancare più a nessuna messa, perché ogni domenica, ogni messa, ogni sacrificio eucaristico, ogni banchetto eucaristico è un passo che facciamo nella conoscenza della nostra fede. E capite che non possiamo saltare queste spiegazioni, altrimenti restiamo indietro nella nostra fede, come purtroppo avviene spesso. Vi auguro dunque da oggi di saper leggere il Vangelo, saper ascoltare il Vangelo come la spiegazione della vita di Gesù in relazione col Padre, con lo Spirito Santo. E allora vi accorgerete che tantissimi gesti, tantissime parole di Gesù, non ve lo sto a dire adesso perché le vedremo durante l'anno, sono in relazione col Padre. Prima di scegliere gli apostoli, prima di risuscitare Lazzaro, prima di consacrare il corpo suo nell'ultima cena, prega il Padre e invoca lo Spirito Santo. Il nostro è un Dio unico, ma in tre persone uguali e distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo.